Letture di Radio 24. Un cane che non ti può parlare, ma ti guarda e ti fa capire tutto quello che prova per te, può solo sconvolgerti la vita, in meglio. Lo scrive Susanna Mancinotti nella prefazione del suo libro Il miglior amico delle donne, che racconta 30 storie di amicizia tra alcune protagoniste del mondo della cultura e dello spettacolo e il loro cane. Tra queste c'è la storia di Otto, il cane corso di Orietta Berti, un gigante di 70 kg che vuole ancora dormire con i suoi padroni, come quando era cucciolo. È stato un caso che fra tutti i cuccioli dell'allevamento io alla fine scegliessi proprio Otto. Nell'allevamento di 100 c'era un cucciolo corso tigrato, proprio come volevo io. Ma purtroppo non l'avrei potuto prendere subito, perché era ancora troppo piccolo e non poteva essere separato dalla mamma. Sapevo che i tanti impegni che avevo in programma non mi avrebbero permesso di ritornare. Ero perciò un po' delusa quando è capitato che, mentre me ne stavo andando, un cuccioletto tutto nero, molto intraprendente, cominciasse a tirarmi la sciarpa. Con le zampette era finito nelle maglie di lana e non riusciva più a districarsi. Era bellissimo, anche se non era tigrato. E così ho pensato che quello fosse stato un segno del destino. Lui mi aveva scelto e io non avrei mai potuto non prenderlo. Così Otto è entrato nella mia vita. Era stato Osvaldo a permettergli di dormire addirittura sopra di lui, perché era così piccolo e adorabile. Ora è diventato un cane grande, dal peso di circa 70 kg, che però testardamente pretende di mantenere le abitudini che aveva quando era piccolo. Otto la sera arriva nella nostra camera, con un salto sale sul letto e si mette tranquillamente tra me e Osvaldo. Il problema grosso, però, con lui è un altro. Otto si rifiuta di allontanarsi da casa e dal suo giardino. Non c'è verso. D'altra parte pesa così tanto che non si riesce a trascinarlo, tirandolo con il guinzaglio, e non si può certo prendere in braccio un molosso. Portarlo dal veterinario è quindi impossibile. «Signora, cosa facciamo? Lo vuole sopprimere?» mi chiede il veterinario mentre guardo Otto disteso, addormentato con il sedativo, e penso che è bellissimo. Mi risveglio dai miei pensieri. «Ma scherzerà, eh?» dico al veterinario. «Io me lo tengo, questo cane, è capitato a me. Si vede che devo tenerlo io». Il veterinario annuisce mentre continua la visita di controllo che sta facendo a Otto. Sarebbe stato impossibile per lui visitarlo senza prima averlo addormentato, perché Otto non si fa avvicinare da nessuno. Abbiamo anche tentato di farlo educare. È venuta a casa un'istruttrice, ma ci ha detto che il cane è troppo aggressivo, per cui è impossibile dargli delle lezioni. Ci ha anche suggerito di prendere in considerazione l'ipotesi di farlo castrare, perché di solito, dopo l'operazione, i cani sono più tranquilli. Io non mi capacito. In passato ho avuto anche 15 cani insieme, eppure non mi è mai successo quello che mi sta capitando con Otto. Ricordo solamente che quando l'ho portato qui a Montecchio, visto che non era abituato a stare in giardino e a sentire l'erba sotto le zampine, all'inizio voleva stare solo dentro casa. Otto è un cane che non ha mai voluto oltrepassare il nostro cancello. Al massimo sta un po' in giardino, poi ci segue sempre per tutta casa. Una volta io e Osvaldo stavamo davanti alla TV. E Otto è arrivato di corsa abbaiando. «Basta, stai buono!» ha cominciato a dirgli mio marito. Ma lui non ha smesso e ha continuato ad abbaiare come un forsennato. «Smettila, Otto!» Allora lui ha cominciato a tirare Osvaldo per una manica e a strattonarlo per farsi seguire fino al piano di sopra. Mia suocera si era sentita male, era svenuta nel bagno e Otto era corso ad avvertirlo. Mio marito ha potuto così soccorrere la madre grazie al nostro cagnone testardo. Otto non è cambiato neanche adesso che è più grande. Ha conservato le sue abitudini. Come sempre sorveglia la casa al punto tale che quando la domestica apre gli armadi per prendere le lenzuola pulite per rifare i letti, lui corre a guardare e a seguire ogni suo movimento. La notte continua a girare per casa, dorme un po' sul nostro letto, un po' sul divano e va anche in camera di Otis. Mia suocera è mancata. Non c'è più chi unisce i letti per lui e Otto ne sta soffrendo. L'ho capito benissimo, perché quando suona il campanello della porta, lui corre subito. È evidente che la sta aspettando e ogni volta leggo la delusione nei suoi occhi. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Susanna Mancinotti, Il miglior amico delle donne, storie e segreti di cani straordinari e delle loro padrone. Sonzogno, 192 pagine, 16 euro.